disse Napoleone, solo grandi uomini commettono grandi errori. Io aggiungo, da questi ultimi li riconoscerete. Oggi troppe cose si possono comprare. Un plebeo può farsi accompagnare da un corteo imperiale, purché abbia i soldi per pagarlo. Un bifolco può acquistare un imperiale castello, persino il trono e il titolo di imperatore sono oggetti del commercio tutt'altro che nobile. Difficili, non i cerimoni.